una menos, ni una menos, ni una menos, ni una menos, ni una menos, ni una menos, ni una menos, ni una menos, cabrón, ni una menos. Ciao, benvenuta. E volevamo sapere chi sei, quale realtà rappresenti e qual è il vostro lavoro. Ok, allora, piacere, mi chiamo Gabriela, faccio parte dello Strike Kobiet Mediolan, che è un gruppo e parte del movimento nazionale polacco delle donne che lottano per il diritto all'aborto, che adesso è una questione molto, ancora molto calda in Polonia. Ma ovviamente un movimento femminista a tutti i livelli, quindi sì, adesso il tema principale è l'aborto, ma è importante anche tutto il resto. Noi ci siamo riunite qui a Milano per la prima volta in occasione della protesta davanti al consolato polacco a seguito della sentenza della Corte Costituzionale, che è una corte illegittima perché adesso in Polonia non c'è una vera e propria suddivisione dei poteri, che ha dichiarato il diritto all'aborto incostituzionale. E per la prima volta ci siamo appunto incontrate lì davanti al consolato. Poi ci siamo rincontrate un'altra volta, quest'anno, qualche mese fa, cioè in realtà non proprio quest'anno, nel 2021, per protestare di nuovo dopo che una donna polacca è morta perché le è stato negato l'aborto, e purtroppo non è stata l'unica donna a morire per via della negligenza e di questa decisione anche insensata dei medici. Insensata perché erano delle morti inutili, delle morti che potevano essere evitate tranquillamente, sono morte di sepsi, stiamo parlando comunque di una cosa che in questi tempi non dovrebbe più accadere. Sono state lasciate sul lettino ad aspettare perché si aspettava che il battito cardiaco del feto si fermasse in maniera naturale. Solo che quando è successo era troppo tardi per salvare queste donne. Una di loro, l'ultima, che è morta poco tempo fa, ha portato un feto morto di un gemello per una settimana, e non hanno neanche salvato l'altro dei gemelli perché non si può sacrificare un bambino per un altro, quindi... sì, ricorda un po' il racconto dell'ancella messo in atto in un paese comunque che fa parte dell'Unione Europea, che si trova nel centro dell'Europa, e non possiamo ignorarlo. Quindi io, pur essendo cresciuta in Italia praticamente da quando avevo 4 anni, ho deciso di fare qualcosa anche dall'estero, perché aiuta sempre almeno far sapere agli altri, almeno lasciare una mia testimonianza viva, in modo tale, uno, da denunciare il governo, ma dall'altro lato anche per dimostrare che noi in Polonia stiamo lottando, che non è un governo che è sostenuto dal popolo, adesso non solo le donne, ma tantissime altre classi sociali, tantissimi altri gruppi, minoranze, tantissime persone si sentono attaccate in qualche modo dalle azioni del governo, infermieri, infermiere, adesso anche la scuola, perché il nuovo ministro vuole introdurre una propaganda di destra, una propaganda cattolica all'interno delle scuole. Io intanto anche voglio aggiungere che in Italia faccio parte, sono socia dell'UAR, e cerco di unire il femminismo anche con l'ateismo, perché sostengo che l'ateismo sia un alleato naturale del femminismo, e spesso si parla ancora poco di questa corrente, perciò nei prossimi anni cercherò sicuramente di parlarne di più e di renderla un po' più famosa. Perché è importante anche un punto di vista ateo all'interno del movimento femminista. E l'8 marzo ci sarò, il 9 non più, perché il 9 vado in Polonia, sono un po' preoccupata per la situazione corrente, che è importante anche per noi, quello che sta succedendo adesso in Ucraina. Sono stata anche alla protesta, alla manifestazione degli ucraini qui a Milano, e niente, cercherò di sostenere un po' tutti, donne italiane, donne ucraine, donne di tutto il mondo. Vediamo cosa si può fare, sicuramente insieme si può fare qualcosa anche internazionalmente, ma gli aiuti internazionali sono sempre importanti, perché riescono a dare voce a quelli che magari all'estero non riescono a farsi sentire. Just some of them ask me where me get it from. I told them no, it's from creation. I told them no, it's from creation. Bam, bam, ayo, what a bam, bam, bam, bam, dilang, bam, bam, bam, bam, bam, dilang, bam, bam, bam, ay, what a bam, bam, ta what a bam, bam. This woman never trouble no one. Come non una di meno, siamo qui oggi in Piazza Duomo per lanciare lo sciopero transfemminista nazionale dell'8 marzo. Uno sciopero dal lavoro produttivo, riproduttivo, di cura, dai generi, dei generi e dai consumi. Siamo qui in piazza anche per le compagne che non possono essere qui, perché costrette al lavoro riproduttivo e di cura, perché hanno corpi troppo fragili, perché recluse nei CPR, nelle carceri. A loro noi diciamo, siamo qui anche per voi. Invece, a tutti quelli che ogni giorno ci opprimono, diciamo, ve lo buchiamo sto patriarcato. Ve lo buchiamo per le 118 donne uccise quest'anno solo perché donne, per tutte le aggressioni omo-lesbo-bitransfobiche. Ve lo buchiamo perché il lavoro riproduttivo e di cura ricade sempre sulle spalle delle donne, delle persone femminilizzate e razzializzate. Ve lo buchiamo perché in ambito lavorativo donne, persone LGBTQIA+, e razzializzate vengono pagate meno, subiscono molestie e ricatti e hanno lavori più precari. Ve lo buchiamo perché la violenza che subiamo è strutturale e pervasiva, perché schernite il nostro linguaggio inclusivo solo per il terrore di perdere il vostro privilegio. Ve lo buchiamo perché ci impedite un aborto libero, sicuro e gratuito, perché criminalizzate il sex work, perché operate costanti tagli ai centri antiviolenza, alle case rifugio, alla sanità e alla scuola, perché incolpate noi delle violenze che subiamo, perché il vostro mondo è razzista, misogino, omo, lesbo, bitransfobico e abilista. Vogliamo essere libere dalla violenza, libere di attraversare le strade delle nostre città, libere di abortire dallo sfruttamento, dalla narrazione tossica e dai confini. E per questo pretendiamo un reddito di autodeterminazione, fondi per i centri antiviolenza, per le case rifugio, per sanità e scuola pubbliche e laiche. Pretendiamo la decriminalizzazione del sex work e la decriminalizzazione della migrazione. Vogliamo educazione sessuale, al consenso e al piacere nelle scuole. Vogliamo le 10.000 case popolari sfitte di Milano. Breaking it off and setting it off in the real way, making the girls them chill their mind, making them have a good time. Yeah man. SPZ, yo, alongside Riri. Come down now, Rihanna. Take it to them, girl. Work it up, boy, cause it got me feeling naughty. I wanna know, boy, if I could be your shawty. Most definitely. Set it up, boy, make me hot all over my body. Break it off, take it off, no mistake tonight. It off. Yo. Work it up, boy, cause it got me feeling naughty. I wanna know, boy, if I could be your shawty. Yo, yo. Set it up, boy, yeah, yeah. Make me hot. When she feel all the while and she want a good man to give her the style. Wild child, so she dey on my pile. It's a long time now, my want flow the style. Flow the style, my car run like the Nile. Like the most energy, my want give her tonight. Give her tonight and make she feel right. Make she fly like a kite and reach a new high car. We give it to the girl, then make them reel up on ball and make them start call. Anytime she want it back, she a fake call. Don't tip all, I'm hitting it on the spot. And now the rain start fall. Penetrate so great, cause she feel it tough up and tall. What you think, say? Work it up, immediate, boy, if not before. Got me feeling naughty. I wanna know, boy, if I could be your shawty. Set it up, boy, make me hot all over my body. Break it off, take it off, no mistake it off. Yo. Work it up, boy, cause it got me feeling naughty. I wanna know, boy, if I could be your shawty. Yo, yo. Set it up, boy, yeah, yeah. Make yo, me yo. Hot all over my yo, body. Yo. Break it up, SPZ. Y'all, you shoulda know SP and a scout. Naughty sweaters out, make your ball out. Shout, make y'all happy, me give affection in your direction. We go all out. Y'all, just follow we. If you love energy, if you want pedigree, cruise like Penelope. We can see you just bounce with the dusty. We keep giving you the Q to the U to the A, yeah. To the L to the I to the T to the Y. Girl, I got to try. Take your booty, make you reach to the SKY. Woman, I got to say, say, the way you move is making my eyes. Girl, cause you know, say your S to the E to the X to the Y. Boom, bam, boom, bam. Rock it up, boy. Cause it got me feeling naughty. I wanna know, boy, if I could be your shawty. Sexiness. Set it up, boy, make me hot all over my body. Yo, yo, yo. Work it up, no doubt. Tonight. Yo, we be. Work it up, boy, cause it got me feeling naughty. I wanna know, boy, if I could be your shawty. Bless up on the rain, no stress. Set it up, boy, make me hot all over my body. Break it up, yeah. Tonight. Yo. We're gonna break it up tonight. Yo, come here, tug up. Oh boy, we really shouldn't waste no time. Sing it. Come let me back up on your dance hall step. Bring it. And I'm hoping maybe you don't mind, cause I really wanna break it up tonight. Instantaneous. Break it up, boy, cause it got me feeling naughty. Hey. I wanna know, boy, if I could be your shawty. Set it up, boy, make me hot. Baby girl, yo, baby girl, yo, give it up, give it up, turn on. Break it up, boy, cause it got me feeling naughty. I wanna know, boy, if I could be your shawty. Care compagne, ci spiace molto non riuscire ad essere con voi oggi e vogliamo con queste poche parole salutare l'8 marzo che ci vedrà nuovamente in piazza. Il Comitato Berta Vive di Milano, come sapete, nasce dopo il vile assassinio della nostra sorella e compagna Berta Cáceres, la notte del 2 marzo del 2016, pochi giorni prima di questa data simbolica. Quella del 2 marzo è diventata la data della siembra, la semina, l'eredità che Berta ci ha lasciato. Tanti semi che non mancano di fiorire in ogni parte del mondo in suo onore e per continuare la lotta a cui Berta ha dedicato la vita. Oggi l'Honduras, la terra di Berta, è attraversato da uno spiraglio di speranza, con Xiomara, una donna prefidenta, e un lavoro immane da fare. Un grande appoggio, una grande partecipazione al voto, una partecipazione oltre il 70%. Un popolo che ha voluto riprendere in mano il destino di uno dei paesi più poveri del Centro America, l'Honduras, dove la comunità LGBTQI+ è tra le più perseguitate al mondo, dove essere donna è già una condanna, dove la povertà è insostenibile e dove anche l'Italia ha tante responsabilità. Berta ci ha sempre ricordato come la nostra battaglia sia contro la triplice dominazione, capitalismo, razzismo e patriarcato. Noi continueremo sulla strada che ci ha indicato Berta. Berta vive, la luce sigue. Non siamo con voi oggi, ma attraversiamo le stesse strade, le stesse lotte e ci vedremo in piazza l'8 marzo. Comitato Berta Vive Milano. È la storia vera o la leggenda? Oggi non ce n'ha, no. Sto con le mie amiche, trovami, provaci, Keta non esiste, Keta non resiste, no. Vuole, desidera, brama, pretende, Keta non attende, no. Keta non intende, decide, comanda, esige, domanda, Keta non capisce, Keta non tradisce, onore, rispetto, pugnale nel petto, Keta ferisce, io mio c'è Donatella, piazza il picchio e poi passa la gazzella, nei profili alti tu ci lavi i piatti, io non scendo a patti, tu mi guardi e piangi, stronze con le Jordan, poi fritte in camporella, ragazze come tante, con un passato in cella, non farmi domande, ascolta le risposte, facciamo uno shot, poi dritta a fare shopping, guidate dalla brama, mosse dall'inerzia, vanta della tuta, più o meno a vita alta, occhi a cuoricino, pronte per la svolta. Siamo le ragazze, siamo le ragazze, siamo le ragazze, siamo le ragazze, siamo le ragazze, siamo le ragazze, siamo le ragazze, ciao! Visiera Dior, mascara che cola, dice burloni, tacchi diamanti come le stelle che sembra di stare a New York. Vuoi fare ape, domande scontate, passami a prendere, andiamo in centrale. La tipa del bar, sì, ci aveva visto passare. Siamo le ragazze, guerriere se lo tramonto il sole, occhiali scuri, che da col velo. Siamo ragazze, siamo donne, siamo il mistero. E non ci dire cosa fare, noi non la faremo. Dalla brama, mosse dall'inerzia, vanta della tuta, più o meno a vita alta, occhi a cuoricino, pronte per la svolta. Siamo le ragazze, siamo le ragazze, siamo le ragazze, siamo le ragazze, siamo le ragazze, siamo le ragazze, siamo le ragazze, siamo le ragazze, ciao! Somos las chicas, chicas, la calle es mi casa, mírame, mírame, soy la jungla, mis. Mírame, mírame, soy la jungla que no. Es chiquitica, la calle es mi casa. No tengo alma, dinero, no hay plata. Mírame, mírame, soy la jungla, miss. Mírame, mírame, soy la jungla que nada. Non guardo in faccia nessuno, fisso l'obiettivo, colpisco a fondo. Volo alto da subito, mangio carogna, già ma come va sono un condor. Non esco moltissimo, infatti ho il picchio, mischietta, ma love non conosco. Mandiamoci insieme noi raga a brindare a mangiare le false per pranzo. Moschino voglio col caffè. Terza se posso tenere un po' tre. Noi evitami, ci voglio tuffare. Con le ragazze in giro faremo. Siamo le ragazze di Porta Venezia, guidate dalla fama, lanciate con violenza, regine della strada, mancanza di coscienza, portaci rispetto, io non ho pazienza. prenderci tutto. Ciao, sono Cristina Carelli e sono la coordinatrice della Casa di Accoglienza delle Donne Maltrattate, la prima realtà di donne che in Italia ha fatto emergere il fenomeno della violenza maschile sulle donne, questo nell'86. Oggi faccio un po' fatica a definirmi come centro antiviolenza perché ormai i centri antiviolenza sono tutti e non c'è più distinzione, mentre invece dal nostro punto di vista il centro antiviolenza è un luogo politico dove si lavora sulla libertà, cioè per la libertà di tutte le donne, a partire dall'accoglienza di donne che vivono una situazione di violenza maschile. Quindi questo è importante dirlo, perché oggi con il processo di istituzionalizzazione di tutto il sistema antiviolenza sono nate delle definizioni che sono standardizzate e che si rifanno più a degli aspetti tecnici. Quindi ci sono tante realtà che la politica non sanno neanche che cos'è e che però accolgono le donne senza fondare tutto quello che fanno, quindi la loro pratica, innanzitutto sul riconoscimento di protagonismo delle donne per restituire loro potere di azione e di scelta. E quindi questo ovviamente lo puoi fare quando hai ben chiaro da dove nasce questo fenomeno e quando hai anche ben chiaro di quali sono gli effetti che la violenza produce sulle donne. Questo ovviamente è una cosa che mi riguarda perché io sono donna e anche se non ho vissuto, diciamo, delle violenze così estreme, però so che cos'è la discriminazione, la svalutazione, la molestia e quindi, come dire, nella mia relazione con le donne metto tanto di mio. Cosa trovo, diciamo, di connessione in tutto quello che noi facciamo ogni giorno con un'idea di sciopero? Quello che facciamo ogni giorno si fonda su quello che ho appena detto, quindi è fare politica, è non stare dentro l'istituzione, ma eventualmente dialogare con l'istituzione ponendo le nostre istanze e cercando di mantenere ferma quella che è la nostra modo di vedere la violenza e soprattutto il nostro modo di approcciare le donne, che sono non sono diverse da me, sono delle compagne di lotta per quanto mi riguarda, per quanto ci riguarda, e questo lo sento proprio come quello che succede nel movimento. Siamo tutte insieme ed è quello anche che vorrei che le donne che accogliamo al centro antiviolenza sentissero. Non sono sole, non solo perché c'è Cadmi al loro fianco, ma perché c'è un grosso movimento di donne che le riconosce, che restituisce loro credibilità e che quando sente la storia di violenza crede alla donna che la sta raccontando. Questo è il punto di partenza per tutte, deve essere il punto di partenza per tutte. Se vi dicessi che ho un'idea chiara di che cosa, quale azione concreta oggi si debba fare per l'8 marzo, mentirei. Ma forse lo dicevo ora. Intanto portare la nostra presenza nella piazza è portare con noi tutto quello che le donne ci hanno raccontato, tutta la loro forza, perché anche noi riceviamo forza dalle donne, e questo dal nostro punto di vista è quello che impaurisce di più il patriarcato. Quindi questa è l'azione, diciamo, di base. Poi vediamo, magari ci vengono delle idee. E intanto grazie. Grazie a te. Una frase, un effetto sull'8 marzo? Qualcosa sull'8 marzo, aiuto. Non mi sono preparata, okay. Ti dico la verità. Va bene sono così. Sono un po' stata Era già molto potente. Grazie. Comunque. Grazie a te. Me la estoy escribiendo en el autobús. Esta cultura no es tendencia, es actitud. No pienso quitarme para que te pongas tú. Antes de yo morirme, tu nombre en una bala. Si tengo que marcharme, está detrás de ella. En mi cabeza brechas a base de pico y pala. De las que estás sin nada y ahora se engorda la pella. Las cosas se acaban, da igual cuando duela. He visto la ruina en los ojos de mis chavalas y he sentido la impotencia de saber las buenas. En un mundo de mierda haciéndolas sentir las malas. La mitad de casi todo, le joda la sumón. Por mi mamá por llevarme de la mano pa' la mano. Y por el barrio en que crecimos entre macarras y choni. Dejando hablar primero a las mayores de Pani. Y esto tenlo claro, nada fue por la cara, con la flusa cero, a veces desmoralizada, bailan las palabras al son de la lucha armada por mi clase obrera y el honor de las hermanas. Sincera, maldita la piba de quien no sale de casa sin sugas de 100. Mechero en mano, la miel en los labios, el humo blanco atrecho en sus pasos. Donde la pista la musa de miles, soberbia la calle es lo que la define. Señora perra, barrio bajera, que no hables de mí como si me conociera. En su mirada la misma rabia que Silvia Rivera y todas las bastardas. Ella peca, maldice, tontea con la parca, te remata la jugada. Busca la paz, esa chica de mirada triste, no está claro pero insiste. Lo intentaste y mira, no la hundiste, y bajo costillas un mal que no viste. Ojeras negras, alma bella, como castigo el recuerdo de ella. Si me olvido el daño hecho, como techo ya lo dejo, ya lo he hecho, pecho. Si supieras que a rato leo el alma, te ahorrarías algunas payasadas. Ahora pírate, anda, no merecen ni mi venganza. ¿Y tú? ¿Por qué cruzas tus límites? ¿Por qué derramarías sangre ajena? Te olvido y mi perdón no me los trámites. Diciendo nombres propios en una misma esquela. Soy la queen de este bling bling. Cuando más crece mi drama, más larga mi raya. Mi vida es mi desdicha, prim. Aquí ya no hay espacio en el coro de esta dama. Civit pacem, parabellum. Placa, placa, esos cabrones que apretaron mi cuello. Desde Vallecas al mundo entero. Jurado por los tíos, jurado que lo mío es sagrado. Y que como lo toques te hundo. Se complica, en este directo no valen tus directrices. Con vuestra cara larga me curo la cicatriz. Ni el tiempo ni el día hace pa' nada como ver llorar a esos primos que quisieron pero no dan nada que hablar. En honor a la verdad, aquí no se está tan mal. Ladran de estas perras porque quieren su collar. La Casa delle Donne di Milano partecipa, non solo aderisce, ma partecipa convintamente alle iniziative di Non Una di Meno per l'8 marzo, perché la Casa delle Donne è uno spazio sì dato dal Comune, ma è uno spazio per il movimento delle donne, richiesto, voluto dal movimento delle donne, perché è uno spazio di libertà. La Casa delle Donne di Milano ha lavorato tutto l'anno sul tema della cura e in questo periodo noi porteremo in manifestazione soprattutto l'intreccio tra il tema della cura, in cui si vede il lavoro e il valore delle donne, e che cosa esprime il patriarcato. Uno delle espressioni del patriarcato, che è l'opposto della cura, ovviamente la violenza contro le donne, ma è anche la violenza contro la vita, il pianeta, e infatti in questi giorni siamo sotto la minaccia di una guerra in Europa, per cui noi portiamo questo intreccio tra cura, libertà delle donne e lotta alla violenza patriarcale. Splendido, splendente, questo mondo finalmente io sono. L'8 marzo a Milano sarà sciopero globale transfemminista. Per tutto il giorno sciopero produttivo e riproduttivo. Dalle 9:30 corteo studentesco in piazza Cairoli e poi alle 18 in piazza Duca d'Aosta, corteo cittadino. Contro la violenza maschile e di genere non sei sola. Se ti picchia, ti insulta, ti controlla, non sei sola. Se un tuo no non è abbastanza, non sei sola. Se condivide le tue foto senza il tuo consenso, non sei sola. Se la pandemia e la sua gestione ti hanno fatta sentire stanca e isolata e ora non stai bene, non sei sola. Se ti ha voluta sola, ha abusato del tuo tempo, del tuo corpo, del tuo amore e del suo ruolo, se hai avuto paura di raccontare, non sei stata creduta, non sei sola. Se il carico di lavoro domestico e di cura è insostenibile, non sei sola. Se al lavoro ricevi vere e proprie molestie, non sei sola. Se prendi il 20% in meno di un collega e ti fanno mobbing, non sei sola. Se come il 50% delle donne, e molte di più tra le donne migranti e le donne T, sei disoccupata, non sei sola. Se vorresti lasciare la tua casa a causa di un marito, un compagno, un fratello o un abusante, ma non sai dove andare, non sei sola. Se in strada ti fischiano o ti molestano, se quando torni a casa la sera stringi le chiavi tra le dita, non sei sola. Se a scuola l'unico corso di educazione sessuale l'ha fatto una lobby antiabortista, non sei sola. Se la tua malattia per gli ospedali non esiste, se hai dovuto partorire con dolore, non sei sola. Se ti dicono che il dolore è normale per le donne o che è tutto nella tua testa, non sei sola. Se si rifiutano di curarti o tardano a farlo per il tuo genere, il tuo orientamento, il tuo aspetto, non sei sola. Se non ti senti libera di essere e di desiderare chi vuoi tu, non sei sola. Se dopo il coming out subisci minacce e ricatti, non sei sola. Se sei scappata dalla guerra, dalla miseria, dalla violenza, non sei sola. Se subisci il ricatto del permesso di soggiorno, della cittadinanza, se il tuo colore di pelle è motivo di discriminazione, non sei sola. Se per un giudice è alienazione parentale o 20 secondi sono troppi per reagire, non sei sola. Se ti dicono sei troppo grassa, sei troppo magra, sei troppo alta, sei troppo bassa, non sei sola. Se la città, la scuola, il pub, il tuo luogo di lavoro sono barriere per il tuo movimento libero e indipendente, non sei sola. Se lotti ogni giorno per te, per chi ti sta intorno, per i tuoi diritti e di tutti, qualunque sia la tua lotta, non sei sola. Se non puoi crederci, se non riesci a renderti conto che tutto questo succede quotidianamente, ma vuoi almeno provarci, non sei sola. Continueremo a batterci per un reddito di autodeterminazione che ci permetta di uscire da situazioni di dipendenza economica e violenza e di avere vita degna a prescindere dal nostro lavoro o non lavoro, dalla nostra origine, slegata da documenti e vincoli. Vogliamo un salario minimo sostenibile e che il lavoro riproduttivo venga riconosciuto. Pretendiamo un sistema sanitario pubblico, laico e garantito, che sia attento alle esigenze del territorio. Basta con il ricatto dell'obiezione di coscienza, basta con la psichiatrizzazione delle persone T. E ancora basta con l'ingerenza cattolica nelle questioni di vita o di morte, come per l'eutanasia. Vogliamo che i soldi di ricchi stupratori siano devoluti ai CAV e che essi siano pubblici, laici e di sostegno e non vittimizzazione alle sopravvissute. Vogliamo che l'educazione sessuale e all'affettività sia nei programmi scolastici. Ci vogliamo vive, libere e felici. L'8 marzo scioperiamo, l'8 marzo ci incontriamo, l'8 marzo saremo Marea. Lo sciopero è per tutte. Ay, pero qué poca. Qué poca. las calles con miedo soy yo. Y dime según tú dónde están mis cámaras de gas. Tu ducha letal sorpresa después de un año de labor forzada. ¿Dónde está tu llanto por un pan? Ni te agarro a cachazos diario, ni te huele a muerte el calendario. No me llames Fermina si no ten respeto por un pueblo entero que sufrió. Me contestó. Siendo el rey. Y dime según tú dónde están mis cámaras de gas. Tu ducha letal sorpresa después de un año de labor forzada. ¿Dónde está tu llanto por un pan? Ni te agarro a cachazos diario, ni te huele a muerte el calendario. No me llames Femina si no, solo porque mi autoestima ya te amé. Ciao, sono Alice di Extinction Rebellion. Extinction Rebellion è un movimento di disobbedienza civile non violenta di massa che chiama i governi a vedere, riconoscere e agire verso la crisi climatica ed ecologica che è in atto in questo momento. E saremo in piazza l'8 marzo con non una di meno, perché la lotta al patriarcato è la lotta per il superamento del sistema oppressivo. E saremo in piazza l'8 marzo con non una di meno, perché la lotta al patriarcato è la lotta per il superamento di un paradigma che noi rivediamo ovviamente a livello sia di ecologia legata alla natura non umana che a quella che invece è il tocca i rapporti tra le persone, no? Per cui la lotta per la giustizia climatica è la lotta per la giustizia sociale, per cui noi ci battiamo tutti i giorni con le nostre pratiche che vogliamo portare anche in piazza e capire come attraversarla assieme. Siateci. Grazie. Grazie a te. Questo disgraziato, che cosa vuoi adesso? I soldi da me? E ve che te ne vai, me? Ma che scherzato, mo? Mi hanno sempre marginata, ma se dico quel che penso passo per l'ineducata. Tipo tu sei una mascaccia, dici troppe cose in faccia. Sei la tipa che si arrabbia spesso, quindi mai si adatta. Mi sono accorta che chi se ne frega ti onfa. Se non sono accorta fate bene a darmi della stronza. Uno in culo all'altro per il debutto che vinto. Se sei uno tutto non ti sfrutto, ti distruggo. Elogio il mio esplicito me ne freghismo. Che se do troppo retta arresto via con l'ultimo esorcismo. Da piccina ero curiosa ed esoterica. Semina infermità dottore, solo una parecchia ostetrica. Se colpa che il babbo parte con le sue chitarra. Che colpa le schiaffi sul muso al primo che sgarra. Siccome al giorno d'oggi la pedata in cura è pronta. Quindi quello quindi dammi pure della stronza. C'è chi mi parla male e io sono la stronza. Non me ne fate un cazzo, lo stesso sono stronza. Lavoro e pago tasse e allora sono stronza. Tu dammi della stronza, stronza. Subisco un tradimento e io sono la stronza. Ok, non mi lamento, lo stesso sono stronza. Ti porto il mio rispetto e allora sono stronza. Tu dammi della stronza, stronza. Grazie, il fatta di una stronza dai difetti. Ma non voglio morire di vaffanculo in estremi. Tipica sociale, timida o solare. Critica le pare, mitica per i cari. Per chi si dà da fare, prometto c'è chi mi dà della merda. Soprattutto chi mi ama ma mi dà dell'ira acerba. Non alzo le mani, for me only put your hands up. Non è cattivente, quindi poca confidenza. Ti va fatica, una che fatica e ti ignora. Ringrazia che sto zitta, bocca mia fa la signora. Tu vuoi del rap? C'è come a gatta, na na na. But please bitch, shut the fuck up. C'è chi tutt'oggi mi dà dell'illusa. Ti faccio due punte, ti ricredi perché sei un loser. Tesoro meglio signora, sotto finta minaccia. Che coglione atteggiando mi dà tutta minaccia. C'è chi mi parla male ed io sono la stronza. Non me ne fotte un cazzo, lo stesso sono stronza. Lavoro e pago tasse, e allora sono stronza. Tu dammi della stronza, stronza. Grazie, subisco un tradimento ed io sono la stronza. Ok, non mi lamento, lo stesso sono stronza. Ti porto il mio rispetto e allora sono stronza. Tu dammi della stronza. On the 8th of March, we would like to send our greetings from Gaza for every woman in the world, every woman who's struggling for her rights, for her freedom, and every woman fights for other women. You are all wonderful. All support and greetings for every strong woman, every woman who fights her own battle by herself. We specially greet our sisters in Italy for their support all the time. We appreciate how you share us our suffering, our social and political problems. Thank you all sisters. Be always strong. Ciao, sono Leila dei Giovani Palestinesi d'Italia e siamo venute qui oggi per raccontare un po' quello che riguarda la lotta delle donne palestinesi, non solo, e di come l'oppressione coloniale israeliana sia strettamente collegata a un sistema ingiusto che si esplicita attraverso anche un patriarcato che è violento nei confronti del corpo delle donne e di tutte le soggettività oppresse nella terra di Palestina e nell'esilio, nella diaspora palestinese. L'8 marzo per noi è una data importante da attraversare perché rimette al centro il nostro posizionamento come donne italiane e palestinesi in un paese che fa fatica a lasciarci spazio e a riconoscerci, e in questa data ci piacerebbe poter attraversare lo spazio di Non Una di Meno e dello sciopero dell'8 marzo raccontando qual è la nostra lotta quotidiana, sia come donne palestinesi, sia come donne italiane, in questo mix di oppressioni differenti, e con uno sguardo a quello che succede in Palestina e di come la lotta palestinese abbia trasformato il nostro modo di guardare il mondo, soprattutto dal punto di vista della lotta per la giustizia di tutti i popoli indigeni, di tutte le popolazioni oppresse in questo mondo, in una prospettiva decoloniale, antirazzista, internazionale e intersezionale. Ciao a tutte e a tutti, sono Maria Carla Baroni, faccio parte di Non Una di Meno fin dal suo inizio, sono attiva a livello milanese anche nelle varie assemblee nazionali in giro per l'Italia. Poi faccio parte della segreteria nazionale del Partito Comunista Italiano e sono molto fiera e molto felice di questa mia doppia appartenenza, di essere donna di movimento e donna di partito. Ecco, perché io cerco di portare avanti proprio la prospettiva dell'alleanza tra donne delle varie forme della politica su obiettivi decisi congiuntamente, quindi condivisi, e poi ogni forma della politica, i movimenti per un verso, i partiti per l'altro, i sindacati per l'altro, devono mantenere la loro autonomia politica e organizzativa. Però come donne, proprio a partire da noi donne, lottiamo tutti insieme per gli obiettivi comuni, perché sennò il capitalismo e il patriarcato ci fregheranno sempre, e questa è la prima cosa da fare, costruire, tessere queste alleanze tra noi. Ecco, i temi sono i consultori pubblici come servizio fondamentale di sostegno alla liberazione delle donne, nel senso di riappropriazione del proprio corpo, della propria sessualità, della propria maternità. Ecco, poi tutti i temi del lavoro, è inutile stare qui, ce ne sono tante cose da dire. Ecco, il superamento degli stereotipi nelle scuole, di ogni ordine e grado, stereotipi di genere e non solo, far conoscere la storia delle donne, sia le donne eccellenti nel corso della storia, sia la storia delle donne oltre le donne eccellenti. E uno degli obiettivi di fondo è la cura, insomma noi avevamo fatto un documento che dice prendiamoci cura del mondo, dalla casa alla città al pianeta. Grazie. Ciao a tutte e tutti, sono Chiara di Priorità alla Scuola. Parteciperemo all'8 marzo perché la scuola è il primo spazio per l'emancipazione, perché la scuola è uno spazio vissuto per lo più da donne precarie, precarizzate, quasi sempre sottopagate. In particolare porteremo il tema del post-scuola. Non so se sapete che ormai è da mesi che le donne milanesi devono terminare di lavorare alle 3 perché devono recuperare bambine e bambini alle 16 in tutti i nidi e gli asili pubblici di Milano. Scuole quindi, donne quindi che fortunate se hanno un lavoro devono smettere di lavorare entro quell'ora. Donne appunto già impegnate spesso in lavori di cura che ancora una volta in un ulteriore lavoro di cura vengono davvero sfruttate enormemente nella possibilità di tempo e di possibilità da dedicare agli altri. È fondamentale portare questa mancanza di welfare di base in una città come Milano, guidata da una giunta di sinistra. Si parla tanto di questo modello Milano, ma è davvero una vergogna la soppressione di questo servizio che va davvero a impattare per lo più sulla donna. Grazie. Ciao, io sono Elena di Radio Popolare e come raccontavo in assemblea, ancora non so che cosa faranno le donne di Radio Popolare per questo 8 marzo, posso dire che l'anno scorso per la prima volta da che si ha memoria quantomeno si è deciso di non andare in onda tutte le donne della radio e di lasciare che gli spazi che erano diciamo nostri non fossero dati in conduzione a degli uomini ma fossero occupati semplicemente con una selezione musicale curata da noi, per cui l'anno scorso si è sentito almeno via Ether è abbastanza forte e chiara la nostra assenza e penso che anche quest'anno sceglieremo una modalità simile, adesso vedremo martedì che cosa ci inventiamo e poi io curo una trasmissione su questioni di genere che si intitola Sui Generis e niente, quello che ho detto anche in assemblea è che i microfoni Sui Generis sono a disposizione per costruire insieme l'8 marzo e per poi magari darne anche risonanza nelle settimane e negli anni successivi a venire. Grazie mille. Grazie a voi. Benvenuto qua in assemblea statale per costruire l'8 marzo insieme. Volevamo sapere prima di tutto chi sei, che cosa rappresenti e perché ritieni che sia importante costruire un 8 marzo insieme, uno sciopero globale per tutte. Sono Vittorio Agnoletto, sono qui come a rappresentare il coordinamento di ICO32, che è il coordinamento delle associazioni che in Regione Lombardia difendono la sanità pubblica. L'8 marzo perché è importante? È assolutamente fondamentale, oltre a tutti i motivi storici, ce n'è uno in più, è la difesa della sanità pubblica e dei servizi sanitari, dei servizi sociali, dei servizi e dei diritti che sono collegati a questi servizi. Non c'è ombra di dubbio che quanto più i servizi sanitari vengono tagliati, quanto più i servizi sociali vengono tagliati, tanto più questo ricade in particolare sulle donne. Alla trasmissione 37.2 di Radio Popolare noi continuiamo a ricevere telefonate per esempio di persone che sono a casa fragili e che hanno bisogno di un'assistenza domiciliare, le USCA non arrivano, l'assistenza domiciliare sostanzialmente non esiste, chi è che sta a casa, chi è che rinuncia al lavoro? Le donne, le mogli, le madri, le figlie. Vogliamo parlare della Dada? La Dada non ha portato solo un lockdown con poi un aumento delle violenze in casa, ha portato una degenerazione della vita familiare e un doppio ruolo da parte delle donne. Ci sono delle inchieste interessanti su questo, cioè il dover lavorare in collegamento da una parte, il dover badare ai bambini e alla famiglia e a mandare avanti la famiglia dall'altro. Quindi sono situazioni molto concrete che poi nei servizi sociali e nei servizi sanitari si manifestano, ad esempio, con il taglio totale dei consultori o col fatto che i consultori vengono sempre più affidati al privato. È un caso? Assolutamente no. La nuova legge regionale sulla sanità della Lombardia privatizza ancora di più. E che cosa privatizza? I servizi di primo livello, le case della salute e gli ospedali di comunità. Tu arrivi lì pensando di arrivare attraverso il Servizio Sanitario Nazionale e da lì ti mandano al servizio privato. Quindi una battaglia sui diritti che al centro poi che cosa c'è? Una cosa fondamentale, l'autodeterminazione. E allora mi permetto di dire che questo 8 marzo tutti quanti abbiamo un motivo in più per essere in piazza, ed è quella di una risposta alla decisione vergognosa della Corte sull'eutanasia, che pretende ancora una volta, in nome di una morale e di un'etica presentata come al di sopra delle parti, di sottrarre le decisioni ai singoli cittadini. Va bene, grazie mille. Grazie a voi. Of the phoenix, huh. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night.